24 mattino, estate. Sono le 8:19 minuti 40 secondi, ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque parleremo di scorte, parleremo di casta, il ritorno della casta. Abbiamo messo sul nostro sito, su radio24.it, per anticipare il tema che affronteremo più tardi, ma come vi ho detto è anche l'occasione, con un ospite che ringrazio di essere nuovamente con noi, per parlare di uno dei casi che diciamo ha agitato il web e l'informazione nel periodo ferragostano. Saluto dunque Avi Pazner, che è l'ex ambasciatore israeliano in Italia, portavoce del governo di Israele. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ambasciatore, il caso è, tanto per ricordarlo, quanto uscito a Ferragosto, un giallo così definito sui piani d'attacco di Israele contro l'Iran, quando un blogger mette i documenti su internet. Oggi facciamo un grande parlare della vicenda WikiLeaks. In questo caso invece il sito si chiama Tikkun Olam e il blogger israelo-americano Richard Silverstein, che appunto Ferragosto pubblica una serie di informative che lui avrebbe raccolto da fonti interne al governo israeliano. Parlerebbe dunque di un attacco coordinato nei confronti dell'Iran, che includa anche un'aggressione cibernetica senza precedenti, in grado di paralizzare totalmente il regime iraniano, la sua capacità di comprendere cosa stia accadendo entro i propri confini. Oggi, a proposito del web, se andate su www.richardsilverstein.com, quindi nel sito in questione, la prima notizia è: Israeli official refused to deny authenticity of the plan. Insomma, le fonti ufficiali, anzi gli ufficiali israeliani, rifiutano di negare l'autenticità di questo documento. Prima domanda, ambasciatore Pazner: che cos'è questo leak? È un modo per comunicare, una bufala? Qual è la sua prima riflessione? No, lei sa che puoi trovare sul web una montagna di informazioni, di voce sulle possibilità di una guerra fra Israele e l'Iran, e credo che questa è una situazione naturale, se posso dire, quando c'è tanta tensione nell'aereo, quanto ognuno sa che l'Iran sta sviluppando una bomba atomica e che l'Iran dichiara, e c'è stata una dichiarazione 3 giorni fa da parte e del leader spirituale Khamenei e del presidente dell'Iran Ahmadinejad, che loro vogliono distruggere Israele. Allora è normale, diciamo, che ci siano sul web, non soltanto sul web, sui giornali, anche nel dibattito pubblico, molto su questa possibilità, che c'è una possibilità che Israele non aspetti che l'Iran colpi prima, però che noi prendiamo una decisione di passare alle atti per evitare che l'Iran sviluppa questa arma di distruzione totale. Ecco, ambasciatore, questo diciamo è un po' il quadro in cui, come dire, le rivelazioni del 15 agosto non spostano di una virgola, perché in fondo questo discorso lo potevamo fare il 10 o anche 2-3 mesi fa. Io però insisterei un momento su questo aspetto. Il dossier in questione addirittura entra nei dettagli. Si parla di una tecnologia sofisticata per mettere KO, internet, telefono, eccetera, che ci ricorda tanto l'operazione Giochi Olimpici 2010, di cui magari parliamo dopo. Poi si parla di lancio di decine di missili balistici in grado di coprire la distanza necessaria appunto per colpire gli obiettivi in territorio iraniano. Insomma, si entra in un livello di dettaglio che secondo appunto chi li ha pubblicati, Richard Silverstein, serve anche a, come dire, a mandare un ulteriore messaggio di chiarezza all'Iran. Secondo lei, in questi documenti c'è qualcosa di nuovo oppure no? Io credo che questi documenti sono una speculazione come tante altre, e no, questo non è l'unico. Se lei, per esempio, legge la stampa israeliana, ci sono ancora altre rivelazioni, si posso dire, se sono rivelazioni così. E voi in Italia siete preoccupati di altre cose, voi avete un grosso problema economico, una crisi, avete un stato molto caldo, allora i vostri giornali si occupano di altre cose. Se lei fosse qui in Israele e legge i giornali israeli, sono pieni di piani, si posso dire che sono piani, o di leak, o di speculazione. Questa speculazione di Ferragosto è uscita sul web, per questo che voi avete preso notizia di questo, però qui ci sono tante cose. Sulla televisione israeliana io ho visto dei scenari che dicono che sono esatti e ognuno è al rovescio dell'altro. È una situazione di alta tensione adesso, di molta alta tensione, e questo è una fonte di speculazione, di voce e di gente che crede sapere qualche cosa, però la verità è che nessuno non sa che sarà la decisione del governo israeliano. Insomma, una speculazione tra le tante. Ecco, è una speculazione tra le tante. Ecco, ambasciatore, una domanda. Si parla, diciamo, in maniera sistematica, ormai si parla di una finestra che si chiude con il voto presidenziale negli Stati Uniti. Secondo lei anche questa è speculazione oppure è una, diciamo, pratica considerazione sui tempi di un possibile attacco preventivo di Israele? Anche questa è una speculazione, perché diciamo che Israele decide di attaccare, diciamo che allora che sarebbe la logica di dire noi attacchiamo a settembre o ottobre, capisce? E questa è un'altra speculazione. È vero che questo è la speculazione della quale più si parla, questo è vero. Però lei si immagina che non c'è nessuno nel governo israeliano che annuncerà una settimana o due settimane, un mese prima dell'attacco che attaccheremo. E tutto questo, io lo dico un'altra volta, lei è forse un po' difficile dell'Italia di vedere, c'è qui un clima di molta alta tensione, e un clima di alta tensione molto propice alla diffusione di speculazione così. La verità è che c'è una situazione molto pericolosa nel Medio Oriente per il sviluppo della bomba atomica da parte dell'Iran, e nessuno non sa come terminerà questa cosa. Ambasciatore, la Siria per anni è stato, come dire, il nemico stabile, ma appunto col passare degli anni si insisteva più sulla seconda parte, cioè sulla stabilità. Oggi in che modo rimescola le carte, in che modo eventualmente accelera questa esigenza e questa crisi, visto dalla prospettiva di Israele evidentemente, di un possibile attacco preventivo? Bene, noi abbiamo preso una decisione quando hanno cominciato i problemi nella Siria, abbiamo preso una decisione di non metterci né da un lato né dall'altro, perché sarebbe completamente controproducente per noi. Allora seguiamo con molta inquietudine la situazione in Siria, e anche siamo molto commossi di vedere il numero straordinario delle vittime di questo conflitto, che già sono più di 20.000 morti, che è terribile, terribile. Però noi non ci mettiamo lì perché uno non sa, è vero che il regime di Assad era un regime molto ostile verso Israele, però anche non sappiamo esattamente chi sono gli insorgenti. Dicono che c'è una forte una forte tendenza islamica con gli insorgenti, dicano, non so se è vero o no, che c'è una grossa infiltrazione di Al-Qaeda. Ecco, ma dopo oltre 15 mesi di questa guerra civile, Israele immagino avrà fatto i suoi conti con queste realtà. Sì, sì, però lei capisce che non vogliamo noi prendere parte. Qui prendiamo evidentemente delle misure di sicurezza per evitare che questo conflitto venga fino ad Israele. Per il momento devo dire che non abbiamo avuto qui né profughi siriani, che sono tutti andati o nella Turchia o nella Giordania o nel Libano o nell'Iraq, non sono venuti in Israele per fortuna, né abbiamo avuto dei problemi sulla frontiera con Siria, perché non ci sono dei combattiti sulla frontiera con Israele. Noi prendiamo le nostre distanze da questo conflitto, però anche prendiamo tutte le misure necessarie per evitare cattive sorprese. Naturalmente. Grazie a Avi Pasner, lo ricordo, ex ambasciatore italiano, portavoce del governo Israele. In salutandola, una sola battuta in conclusione. Lei appunto ha anni di esperienza nel suo mestiere, nei temi della sicurezza. Siamo ormai verso fine agosto. Qual è il suo pensiero? Questo attacco allo stato dell'arte è un processo inevitabile, oppure anche diciamo una schermaglia politico-diplomatica che magari potrebbe andare avanti per tempi molto lunghi? Io credo che molto dipende dell'attitudine degli Stati Uniti e dell'Europa. Se c'è un attento serio di fermare il nucleare iraniano da parte degli Stati Uniti, da parte del presidente Obama, possiamo, credo, evitare un conflitto. Però sì, niente succede, l'Iran va avanti e continua a sviluppare l'arma atomica. Qui c'è un pericolo esistenziale per Israele e c'è la possibilità di un'azione militare. Grazie a Avi Pasner, chiarissimo, un pericolo esistenziale dunque che Israele evidentemente non intenderà, non potrà lasciar correre. Seguiremo, come facciamo appunto regolarmente, le grandi temi della politica internazionale. È vero, come diceva Pasner, oggi siamo noi italiani alle prese con la crisi economica, con il grande caldo intorno a noi, grandi manovre che riguardano la Siria, che riguardano Israele, che riguardano il nostro Mediterraneo. 8:32 minuti, a proposito di grande caldo, sentiamo il meteo e poi invece parliamo di scorte con alcuni ospiti. A tra poco. Ancora un buongiorno, sono le 8:35 nel frattempo. 349-238-6666. Angela ci scrive: il costo della scorta di Calderoli è di 900.000 euro, non di 450.000. In due anni è costata 900.000 euro. Questo è il dato appunto indicato anche oggi da molti titoli dei quotidiani. Abbiamo letto in rassegna stampa: Villa Calderoli tolta la scorta. Insomma, un'estate di polemico intorno alle auto blu, un'estate in cui abbiamo parlato parecchio di spending review e naturalmente quasi inevitabilmente ci troviamo a parlare di spese della politica. Con noi questa mattina Andrea Fluttero, senatore PDL, buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo Aldo Di Biagio di Future Libertà, buongiorno anche a lei. E Franco Maccari, segretario nazionale del COISP, il sindacato di polizia indipendente. Buongiorno Maccari. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Fluttero, comincerei da lei, che è protagonista di una battaglia davvero insolita, una battaglia addirittura per consentire l'accesso della sua bicicletta all'interno di uno spazio che viene descritto come il grande dominio delle auto blu. Di che cosa si tratta? Sì, non è una grande battaglia, è una cosa molto tranquilla e molto normale. Più che l'accesso è il parcheggio, nel senso che io ho l'abitudine da quando ero sindaco a Chivasso di girare molto con la bicicletta e ho visto che a Roma in centro, diciamo tra Via del Corso e Corso Vittorio, tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo, girare in bicicletta è molto funzionale, nel senso che si fa prima che in macchina e prima che a piedi. E quindi ho continuato questa abitudine, mi sono comprata una biciclettina e avrei piacere di parcheggiarla vicino al Senato, no? Nell'area intorno al Senato, dove stanno le auto, auto blu, auto con lampeggianti, auto di dirigenti, auto autorizzate, ci mancherebbe. Però la bicicletta non può essere parcheggiata, mi dicono i carabinieri, da 6 anni per motivi di sicurezza. Non sono mai riuscito a capire perché voglio dire, se uno vuole fare un attentato mette del tritolo dentro un bagagliaio, non certo di una macchina, non certo dentro i tubi di una bicicletta. Però quindi non è una grande battaglia, però è da 6 anni che non ne porta a casa i risultati, quindi forse lo diventerà. Allora, guardi, nel momento in cui prima c'era una rastrelliera, era piena zeppa di biciclette arrugginite abbandonate. Per 5 anni ho provato, insieme a qualche dipendente del Senato che pure viene in bicicletta, a vedere se era possibile far togliere le biciclette arrugginite e abbandonate dalla rastrelliera. Dopo 5 anni, qualche mese fa, hanno tolto le biciclette, ma purtroppo hanno tolto anche la rastrelliera. E quindi ogni volta è un po' una discussione con questi carabinieri che fanno il loro dovere, che mi dicono: guardi, lei deve parcheggiare fuori di quest'area. E io dico: ma abbia pazienza, vede che è pieno di macchine, che fastidio le dà una bicicletta, no? E questo è tutto lì, insomma, niente di particolare, ma in quest'estate è diventata forse... Il nostro è un paese davvero bizzarro, no? Sì, davvero, in un paese in cui un senatore della Repubblica, che noi appunto vediamo anche davvero costruendo un po' nel nostro immaginario il potere, la casta, un senatore della Repubblica non riesce a portare una bicicletta, diciamo, con i crismi, quindi una rastrelliera, quelle cose di base, all'interno del palazzo. Lei dice: quest'estate forse diventa un simbolo. Effettivamente diventa un simbolo e forse vale la pena. Lei ha detto subito: no, non è una grande battaglia, però sono 6 anni che non la porta a casa. Io faccio, durante la giornata faccio altro, poi ogni tanto mi capita di dover discutere con qualche carabiniere, sempre con molta civiltà, perché capisco, loro fanno il loro dovere. Però non riesco veramente a capire come in 5-6 anni non sia stato possibile che la burocrazia del Senato abbia potuto risolvere un problema così, non abbia potuto risolvere un problema così semplice. Eppure abbiamo parlato molte volte con i funzionari degli uffici dei questori del Senato, spiegando il problema, però una volta ti dicono: ma forse tocca al Comune di Roma, l'altra volta dicono: adesso poi vediamo che fare. Insomma, ci sono cose più importanti. Di Biagio, Aldo Di Biagio, ancora grazie di essere con noi. È chiaro che poi queste storie diventano, come dire, dei piccoli simboli, magari vengono caricati in maniera eccessiva. D'altra parte, come dire, sono cose che lasciano profondamente perplessi. In questa estate in cui si è parlato a lungo della vicenda, delle scorte appunto del leader, del presidente della Camera Fini, lei che appunto nello stesso gruppo diciamo si occupa di questo tema da un pezzo, non da quest'estate, e seguendola appunto nei blog e sul web ho visto che è da un bel po' che denuncia una sovrautilizzo e ampia inutilità delle scorte, o sbaglio? Sì, un generale malcostume molto tipico del nostro paese, che è difficile da sradicare. Quanto è vasto questo malcostume? Ah, diciamo che è particolarmente vasto. Io apprezzo il buon senso del senatore e credo che, insomma, anche nel mio caso, insomma, io sono un abituato a arrivare a lavoro con lo scooter e non nego di trovare spesso difficoltà, ma anche nell'approccio che spesso i vigili hanno su Roma, nel senso che le scorte passano ovunque, le macchine blu passano ovunque, ad esempio un parlamentare in scooter che evita di girare in macchina, a volte non gli è consentito di passare in alcune zone del centro. Insomma, biciclette, moto, tutto. Insomma, è evidente che c'è un problema, però vorrei fare un distinguo, nel senso che se da un lato, come in questo caso di queste scorte che genericamente vengono in qualche maniera comunque sia autorizzate dalla prefettura, il distinguo è, per quanto riguarda il Presidente della Camera, queste non sono scorte a persona, ma sono scorte alla carica che rappresenta. Quindi mi sembra evidente, non volendo fare ovviamente una difesa del Presidente, che in un certo senso credo che non abbia bisogno della mia difesa, perché insomma, ha sempre dimostrato una grande attenzione intanto nel volere una scorta estremamente ridotta e poi in più circostanze nell'aver posto in grande difficoltà gli organismi di sicurezza perché ha ritenuto di non doverla utilizzare. Va bene, insomma, non è ovviamente il caso con lei di mettere, ma in generale, insomma, di mettere in discussione l'attività, la legalità delle scorte del Presidente della Camera e delle alte figure istituzionali. Di sicuro, però, all'interno del suo stesso partito c'è stato un cortocircuito. Abbiamo sentito Italo Bocchino lamentarsi, scagliarsi contro il ministro degli interni, dopodiché fare marcia indietro. Insomma, la sua linea qua. Ha fatto bene Fini a dire sì, cambiamo? No, ma credo che Fini lo abbia detto in più circostanze, lo continuiamo a ripetere. Non ci dimentichiamo che la cosa paradossale, oltre al fatto che in circostanze, e non faccio una questione di partigianeria che non mi interessa, molte delle persone che il 14 dicembre decisero ovviamente di sfilarsi dal voto di sfiducia al governo, gli è stata data per riconoscenza una scorta. Ecco, una scorta per riconoscenza. Chi è che è? Secondo lei quali sono le scorte, i casi più clamorosi visto dall'interno del palazzo? È diventato un po' uno status simbolo. Andate a verificare quante gli ex ministri, quante scorte hanno a disposizione. Per assurdo, un ex ministro dell'interno può per due legislature, se non tre, avere una scorta a disposizione. Tutti gli ex ministri, quasi tutti gli ex ministri del precedente governo hanno delle scorte a disposizione. Sì. Allora, scorte, vedo degli elenchi pubblicati in questi giorni, si va da Oliviero Di Liberto, che ha a disposizione autista agente, l'avvocato ex deputato Taormina, 4 uomini, l'ex segretario Baccini, 5, Presidente della Camera Marcello Pera, Fausto Bertinotti, Pier Ferdinando Casini, sempre sotto controllo, Irene Pivetti è da un pezzo che credo non faccia più parte insomma del palazzo, ma e poi c'è Agazio Loiero, Federico Bricolo, Giampiero Cantone, Vittorio Sgarbi, l'ha avuto prima nel 93 e poi gli è tornata successivamente. Franco Maccari, ancora grazie di essere con noi. Quanti secondo voi sono delle scorte inutili, delle scorte diciamo estetiche? Guardi, è un argomento piuttosto spinoso, che capisco che è diventato ormai un gossip. Beh, insomma, non è solo un gossip, è anche una questione di sostanza, perché se... Le faccio due esempi velocemente. Quando morì Marco Biagi eravamo tutti a gridare allo scandalo, certo, perché non era stato adeguatamente vigilato. Quando è morto Falcone Borsellino, e dico Falcone Borsellino perché ovviamente conosciamo tutti la loro storia, ma le assicuro che ce ne sono tanti altri, molto purtroppo meno conosciuti, infatti. Sono morte le scorte insieme allo scortato in maniera traumatica, perché anche il numero, che nonostante fosse imponente, non è servito a niente. Allora, dobbiamo fare due ragionamenti. Primo, se la scorta è scorta, significa che la persona, ci sono state delle valutazioni che meritavano di essere valutate con attenzione e quindi va scortato. Quello che non va da noi non è il numero delle scorte, è tutto il sottobosco delle tutele cosiddette. Lei sa che noi abbiamo 4 tipi di scorta, una più importante, più imponente, che va dalle 2 o 3 macchine con una decina di uomini per turno, a finire alla tutela. Ecco, la tutela è qualcosa che per noi è davvero ridicolo, sarebbe un uomo o una macchina non blindata. Allora il ragionamento di fondo è: la persona è da scortare oppure no? Perché se la tutela è una scorta, le posso dire che quella persona che noi mettiamo a fare l'autista, che in realtà è questo, o una macchina non blindata, quindi addirittura pericolosa, è un status symbol, come dicevamo un attimo fa. E pensi che quelle tutele che io adesso sto citando impegnano più di 1500 uomini. 1500 uomini, quindi il grosso di questo, sì, diciamo, è la tutela. Torniamo tra un istante da Franco Maccari, sono le 8:46, viabilità e poi torniamo con i nostri ospiti. 8:47 minuti, parlavamo con Franco Maccari, che lo ricordo è segretario nazionale del COISP, il sindacato di polizia indipendente. Dunque, i 4 gradi, 4 tipi di scorte, e quando si arriva al livello più basso, definiamolo così, più leggero, quello della tutela, 1500 uomini e donne impegnate nelle scorte, un numero enorme, con un'utilità che lei definisce sostanzialmente nulla, nel senso che ha parlato di autisti. Sì, ma parla autista, è vero proprio, cioè la maggior parte delle volte, però guardi, quando dico 1500 parlo solo di coloro che sono fisicamente a fianco della persona tutelata, non si può dire scortata, senza contare tutti quelli che poi si fanno trovare sul posto, perché tutti gli spostamenti dei tutelati e scortati vengono segnalati dalle varie questure per le vigilanze, quindi ci sono poi le vigilanze che sfuggono al calcolo, le vigilanze su chi si trovano sul posto, le Digos, poi stiamo parlando dei reparti provinciali. L'attività clinica sul territorio, quindi, laddove... E lei moltiplichi almeno questo per ogni spostamento, almeno per 5. Per 5. Stiamo arrivando su, abbiamo superato i 7.500 persone che appunto vengono coinvolte in questo grado. Ecco, quando Di Biagio parlava di veri e propri, di fatto, cadeau che vengono fatti, immagino che il riferimento fosse a questo tipo di attenzione e tutela. Come si ottiene? Come avviene dal punto di vista del politico? Cioè il politico chiede questa cosa, telefona, alza, implora piuttosto che sbraita, oppure cade dall'alto la decisione della tutela? Ma quelle che cadono dall'alto, guardi, sono talmente poche. Ok, e diciamo che sono quelle vere. Cioè, ecco, quelle che si ritiene che comunque ci sia un reale. Guardi, la maggior parte delle difficoltà che trovano soprattutto coloro che sono addetti alla sicurezza non è tanto garantire la tutela, è le proteste, non me ne vogliono il mio interlocutore che non riguarda loro, ovviamente i due parlamentari che sono oggi con noi. La maggior parte delle proteste avvengono perché la macchina fa schifo o perché vogliono un altro colore. Che questo non è un gossip, quello che sto dicendo io, è quello che succede realmente. E come fanno a tenerla? Beh, l'ha spiegato bene il parlamentare prima, il 14 dicembre casualmente aumentarono le tutele in maniera esponenziale. Non è un caso, effettivamente le telefonate funzionano. Poi se lei mi chiede invece come vengono assegnate realmente, ci sono tre solo livelli. Uno è il Comitato Nazionale, che sono rarissime. Uno è la prefettura sicuramente, che è la più titolata, e uno è l'UCIS, che però una follia ha deciso addirittura di farlo chiudere con l'ultima Family Review. L'UCIS sarebbe un ufficio centrale che si occupava esclusivamente di queste scorte più importanti. Adesso verranno vivisezionate, io onestamente dubito che sia più funzionale, mi auguro. Ma questo ovviamente appunto lo staremo a vedere. Ecco, negli ultimi anni, leggo a proposito di spese di tipo di auto, sempre secondo fonti vostre, lo Stato ha investito 120 milioni di euro per comprare 600 BMW, 100 Audi e un'ottantina di Audi A8, insomma... Tra l'altro macchine italiane neanche l'ombra, ma vabbè, insomma spese davvero imponenti. Allora Aldo Di Biagio, queste telefonate sono la chiave di questi meccanismi? Sì, senza dubbio, ma io ringrazio Maccari per averci dato un quadro molto chiaro della situazione. Voglio aggiungere che è molto verosimile, tra l'altro, insomma, ci si ritrova? Sì, assolutamente. Voglio solo ricordare, ho avuto modo di sapere che una mia collega parlamentare, pur di avere una scorta, insomma, un prefetto di una regione gliel'aveva autorizzata, nel senso quella sullo specifico della regione di appartenenza, mentre il prefetto di Roma gliel'aveva negata. Chi è questa sua collega? Gradirei evitare. Una sua collega parlamentare, ora ci ragioniamo un po'. E quindi questo era il quadro che... Dunque ci faccia capire, Roma gliel'aveva negata e dov'è che la ottiene? E in Umbria invece. In Umbria, questo già ci aiuta un po', adesso magari ci arriviamo. È stata, è stata ottenuta. Quindi c'è, cioè, paradossale che questa arrivava fino al confine della regione, dove c'erano questi poveri cristi che dovevano essere impegnati a accompagnarla a casa o probabilmente al teatro. Ecco. Comunque, ecco, voglio Maccari, dire, sì, prego, concluda, no, Di Biagio. Quindi insomma è un quadro in cui lei si ritrova perfettamente. Maccari, io tra l'altro vorrei ancora coinvolgerlo un momento, perché l'onorevole Di Biagio adesso dice questi poveri cristi eccetera, credo che faccia anche montare una discreta rabbia, perché credo appunto non è l'onorevole Di Biagio, l'ha detto in un senso comune che avrei potuto usare anch'io assolutamente. Certo che il vostro mestiere diventa parte di una pantomima. Ora, se la signora in questione, che poi cerchiamo di capire esattamente di chi si tratta, ha come dire bisogno di qualcuno che la porti a teatro, quanta rabbia provoca tutto questo? A teatro è nulla. Beh, insomma, il teatro è già una scena. È un livello, tutto. Dice? Sì, a livello culturale, insomma, che sia accettabile, è quello più basso, è quello che viene normalmente, che fa un po'... Addirittura, perché dov'è che, dov'è che si accompagna? Guarda, è l'arroganza più che altro che normalmente si trova a disagio. Mi permetta solo un inciso. Prego. Quella signora che parlamentare di cui fa riferimento, glielo dico io il nome, in realtà non è un nome, perché ce ne sono centinaia, ma le faccio io un nome perché non c'entra niente con quello che diceva, che è la sorella di Borsellino. La sorella di Borsellino è scortata in Sicilia per effetto di una decisione dei prefetti della Sicilia, ma appena si muove dalla Sicilia non viene più scortata perché nessuno glielo vuole dare la scorta. È una bizzarria che riguarda almeno, dirò un numero, ma onestamente credo di dirlo per difetto, almeno 500 persone. Cioè 500 persone minimo hanno il prefettino di casa che dice sì, quando vieni da queste parti ti spetta la scorta, viceversa appena esce nessuno è in grado di dargliela e nessuno vuole dargliela perché francamente non ci sono gli elementi. E comunque se ci fossero, diciamo, una reale preoccupazione, è ovvio che queste scorte così territoriali non servono a niente. Ma infatti, ma ricordo però che i prefetti sono organi di governo, non sono mica dei liberi professionisti. Certo, sentiamo un momento Giacomo dalla provincia di Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, ringrazio Radio 24 che fornisce queste informazioni molto importanti ai cittadini, tipo queste situazioni che succedono in Italia. Io credo che gli uomini che vengono impegnati per questo servizio per me sono sprecati, anche perché potrebbero essere impegnati per ben altre situazioni, basta guardare quello che succede nei vari notiziari. I parlamentari, gli onorevoli, tutti i soldi che guadagnano, è un lavoro, dovrebbero pagarsi sia le auto per spostarsi e sia la loro attività, se no cambiano lavoro. Grazie Giacomo, da Lucca abbiamo ancora Piero da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho amici tutti quanti nelle forze dell'ordine che rischiano la vita tutti i giorni per 1.500-1.600 euro al mese. Facendo un calcolo, al giorno una scorta costa 1.200 euro al giorno. Ma questi soldi dove vanno a finire? 1.200 euro al giorno per una scorta a Caldiroi. Grazie Piero, direi che come dire, non c'è bisogno di aggiungere molto, magari con Andrea Fluttero, lei con il suo manifesto dell'impegno parlamentare si ritrova, come dire, con immagino orgogliosamente parte di quel palazzo che pretende di funzionare, che pretende di, come dire, ci provo, prego. No, no, infatti, anche perché anche poi... Anche con la storia della bicicletta. Anche con la storia della bicicletta, ecco, che impressione le fa sentire un cittadino... Per me è una questione di comodità, come dicevo prima, ma è anche una questione di messaggio che voglio cercare di dare. Per me, infatti, io la vedo sotto un'altra prospettiva. Secondo me la sua è una piccola battaglia di civiltà in un paese che, appunto, i nostri ospiti hanno descritto chiaramente. Sentire le cose che sentivo prima sulle scorte, non conoscendo la materia, perché non mi occupo di... Non è scortato lei? No, assolutamente, ma sentendo quelle cose da cittadino veramente mi saliva una rabbia incredibile, perché vedo questo utilizzo della scorta come status symbol, vedo l'arroganza di certi comportamenti e mi dà molto fastidio, mi spiace molto, perché invece, e questa è la mia battaglia, c'è una politica, non dico buona, normale, certo, fatta di gente normale, di cittadini che cercano di impegnarsi con i loro limiti per gestire la cosa comune, per gestire la polis, no? come sindaci, come consiglieri, come assessori, come parlamentari, e poi ritornano magari dopo un certo periodo alle loro attività. Purtroppo fa notizia, è giusto che faccia notizia la parte scabrosa, la parte che ci fa salire la rabbia. Le scorte sono una cosa, le scorte mal gestite, diciamo l'abuso delle scorte, sono una pessima manifestazione di questa arroganza della politica. Aver bisogno di avere comunque sempre qualcuno che ti accompagna, l'auto di un certo colore, il lampeggiante, lo sgommare quando parti. Insomma, il grande show che riguarda, diciamolo, perché non ci sono solo politici, ci sono poi giornalisti, ci sono varie figure che rientrano in questo profilo. Da Palermo Paolo ci scrive, io vedo un messaggio, siamo molto stretti coi tempi, dice: per le cariche più importanti è giusto avere la scorta. Intendiamoci, qui non stiamo parlando sul fatto delle scorte, è ovvio che ci debbano essere, ci sono magistrati che rischiano la pelle ogni giorno, qui non stiamo parlando di quegli uomini, di quelle donne che o per appunto carica istituzionale o per mestiere, stiamo parlando di un esercito, l'avete sentito, di oltre 1500 persone sul territorio che diventano 7000, che lavorano e si interrogano in maniera sempre più, diciamo, dolorosa su quello che è il loro ruolo, perché tra l'altro siamo in un paese, l'ho citato oggi dalla prima pagina del Sole 24 Ore, basta ricordare il titolo, in Italia i reati tornano a crescere, cioè non è che manchi il bisogno di lavoro sul territorio. Quindi non abbiamo nessuna intenzione di escludere, negare l'evidenza e l'utilità del lavoro. Magari, come abbiamo sentito, io ringrazio per questo i nostri ospiti, è davvero tempo di rivedere in profondità tutto quello che ha a che fare con il malcostume che ruota intorno alla politica. Grazie ad Andrea Fluttero, lo ricordo, senatore PDL, autore del Manifesto dell'Impegno Parlamentare, ad Aldo Di Biagio di Future Libertà, Franco Maccari, segretario nazionale del COISP, sindacato della Polizia Indipendente. Noi ci sentiamo domani, adesso GR24.